web. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no, perché? Perché no? Deve andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no, no, no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. No, vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, tu no. No, vengo anch'io. Allora, eccolo qui, cominciamo la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Oggi proveremo a ragionare un po', diciamo, di economia, se ci riusciamo, perché vorremmo capire cosa sta avvenendo. Cercheremo degli interlocutori che ci aiutano, che sono dei professori di economia all'università. Uno sicuramente è una voce conosciuta da questa radio, sentiremo Maurizio Donato. L'altro è professore di storia dell'economia dell'università di Bologna, Giorgio Gattei, che un paio di volte l'abbiamo ascoltato anche da questi microfoni. Ci faremo aiutare, dare una valutazione, cosa significa quello che sta avvenendo, cosa vuol dire la Francia che dice io guarda fate come vi pare, io non rispetto il fiscal compact perché lo rinvio a quando saranno i tempi migliori, e il coatto di Firenze invece che dice noi rispetteremo i patti. Vediamo di capirci qualcosa. Quello che è certo che vediamo che in questa fase i numeri sono tutti negativi. Ma prima di internarci nella discussione di questo tipo, volevo intanto ricordare, vedi, subito, salutare Nunzio Terme, chiuso a Regina Coeli. L'aspettiamo con ansia che varca quei cancelli e ritorna in mezzo a noi. Ieri c'è stata un'iniziativa a sostegno, a solidarietà qui a San Lorenzo, al Cinema Palazzo, per Nunzio. Ricordiamo pure Paolo e Luca, che ormai da 6 mesi, 7 mesi sono privi della propria libertà, chiusi agli arresti domiciliari, che non è meno pesante di essere chiusi in una cella che il 10 mattina c'è l'udienza per il riesame della detenzione ed è previsto un presidio davanti al tribunale. Io mi auguro che migliaia di persone a sostegno dei compagni repressi si riverseranno sotto il tribunale a far sentire la vicinanza e l'incazzatura del movimento, che non ci possiamo stare più, perché non possiamo stare a ragionare ogni volta su i nostri compagni repressi, inseguiti da limitazioni, firme, carcerazioni, denunce, e non fare liberamente quello che necessita l'attività politica affinché queste condizioni di disastro sociale, di attacco alla di classe che sta avvenendo nei confronti dei meno protetti, non ci possono più distrarre. Noi lo dobbiamo sapere, l'abbiamo visto platealmente quello che è successo a Napoli, una manifestazione che probabilmente poteva essere anche più partecipata, ma 5-6 mila persone hanno sfilato in un corteo che l'avevano criminalizzato prima, che sembravano come al solito l'invasione delle cavallette, hanno fatto chiudere negozi, terrorizzato, come fanno al solito la tattica loro. Non è riuscito, la gente è scesa ugualmente in piazza, una manifestazione cittadina tutta territoriale, napoletana diciamo, poca partecipazione dalle altre città. Il fatto è venuto talmente bene che la polizia ha caricato immediatamente, senza preavviso e senza niente. Appena sono arrivati a ridosso della zona dove il Dracula, il Draghi, più il Dracula chiamiamolo, no? E si riuniva con i banchieri europei, subito hanno caricato utilizzando gli idranti, cercando di sparpagliare un corteo che per fortuna si è ricomposto e poi è andato in giro per la città portando le proprie parole e ricevendo molto consenso dai balconi. Però fino adesso erano sui balconi il consenso e l'applauso. Speriamo che questa condizione si scende per le strade. Cioè, noi dobbiamo tenerle presente queste situazioni, dobbiamo tenere presente però a non farsi richiamare dalle sirene ormai affragate, come si dice quando no, afone, ormai non le sente più nessuno, ormai sono impercettibili nei sondaggi dell'opinione pubblica. I soliti, quelli che si sono visti ieri a Piazza Sant'Apostoli, una mucchiata per fare l'opposizione a Renzi, quando invece assieme a Renzi governano decine di regioni, comuni, si preparano a fare alleanze successive, però poi vanno in piazza, ricomponiamo la sinistra. Questi proprio sono non c'ho più termini per definirli, sono nulla. Il 25 di ottobre scende in piazza le due sole, che sono solo sole, Lagnini e Camuffo, che abbaiano alla luna da parecchio tempo, ululano, però stanno tutte dentro il sistema, le loro proposte rimangono compatibili col sistema, però servono a contenere l'eventuale rabbia e rabbia di potersi manifestare. E qui ormai a noi, solo se scendiamo in piazza determinanti con rabbia e con determinazione. Non è che possiamo pensare che alle primi schizzi d'acqua ci disperdiamo, anche perché si sta preparando, non so come funzionerà. Come funzionerà a Milano? Ci sarà la riunione dei capi di governo proprio sul lavoro. Penso che anche lì a Milano ci sarà un comitato d'accoglienza, ma un comitato d'accoglienza che dovrà far sentire le proprie determinazioni e la propria presenza. Intanto, davanti a queste premesse, diciamo, di cose politiche in generale, prima di passare agli argomenti che noi volevamo trattare oggi, voglio ricordare qui all'inizio che oggi pomeriggio, contro Forza Nuova, che vuole preparare delle iniziative razziste, è stato convocato un presidio a Piazza Vittorio alle ore 16. I compagni che possono partecipare, da portare manforte a questo presidio oggi, e contro le guerre, alla casa delle donne, l'11 di ottobre c'è un convegno organizzato dal movimento, diciamo, per quello che rimane della pace delle donne, per l'uscita dalla NATO, dall'Italia. Dell'Italia dalla NATO. Dell'Italia dalla NATO. Perciò, davanti a tutte queste cose, abbiamo già il contatto con Maurizio Donato e subito mettiamo i piedi in pasta a domandare a Maurizio Donato che vuol dire in questa cosa mossa della Francia. Se lo può permettere la Francia senza essere attaccata più di tanto, perché è una nazione che possiede la bomba atomica? Perché una cosa è l'Italia deve sottostare ai compitini dell'Europa e devono ubbidire, altrimenti gli fanno passare i guai. Cosa significa? Guardando i parametri, queste politiche imposte fino ad oggi hanno spostato capitale dai poveri verso i ricchi, perché i ricchi sono diventati più ricchi, no? L'1% della popolazione tiene quasi il 90% della ricchezza, cioè non è che per tutti c'è la crisi. E nell'ambito dell'Europa io penso che un operaio tedesco non è che sta soffrendo molto per la crisi, ma l'operaio spagnolo, italiano, greco e via dicendo, insomma, stanno a passare proprio brutta. Allora, che cosa significa questa situazione? Sei pronto? Hai ascoltato, Maurizio? Sì, ho ascoltato la tua domanda. Se ci puoi già a cominciare a far inquadrare, perché i parametri che escono fuori sono tutti negativi. Come bisogna invertire la politica? Correre dietro i francesi e magari non gliela facciamo, oppure pensare di darsi delle politiche autonome nostre? Certo, col coatto di Firenze, che conosce quattro vocaboli, proprio è un coatto da periferia di Firenze. Conosce Ergufo, l'avevamo spianati i termini da Borgataro, come te posso dire, da coatto, da malandrino, non spiega niente. Per esempio, se ne esce con ste buttarde che manco sa che cosa vuol dire. Ridistribuiamo il TFR mese per mese. Perché non ridà il TFR, per esempio, ai propri dipendenti che vanno in pensione, che glielo ridà a 30 mesi dall'andata in pensione, al posto da darglielo subito, che nel momento in cui c'ha il diritto e l'ha maturato? Cioè, più o meno un ragionamento, aiuta e ci inserisce dentro questo discorso. Maurizio, buongiorno. Ciao Serafino, buongiorno, come stai? Benissimo, tu come stai? Bene, bene. Allora, io provo a rispondere almeno alla prima delle a dire quello che penso sulla prima delle questioni che ha sollevato Ettore, e cioè la nuova presa di posizione della Francia, del governo francese. Se non sono chiacchiere, cioè se seguiranno dei comportamenti, e mi sembra difficile, si sono esposti molto per tornare indietro, se seguiranno comportamenti alle dichiarazioni, direi che le regole finalmente del patto di stabilità e crescita sono saltate. Lo pensavano in molti che prima o poi dovessero saltare, così come continuano a pensarla in molti che non sarà possibile per moltissimi paesi, per la stragrande maggioranza dei paesi, rispettare le regole, non solo e non tanto quelle del 3%. Su questo Renzi ha detto delle cose per una volta che hanno un senso. Ha detto: noi siamo d'accordo con la Francia, ha fatto bene a rompere il patto, noi non ce lo possiamo permettere, e in parte per le ragioni che ricordava prima Ettore, perché la Francia è una grande potenza nucleare, ma soprattutto credo che non sia possibile, lo sanno tutti, stabilire le regole che riguardano il rapporto fra debito e PIL, cioè quelle che dovrebbero portare al dimezzamento del rapporto debito pubblico PIL per un paese come l'Italia, arrivare dal 120 al 60. Che questa cosa non si potesse fare era evidente a tutti, e credo che la Francia lo abbia dichiarato soltanto in maniera ufficiale. E qui però arriviamo a quello che secondo me è la contraddizione tipica che ci inchioda da anni alla crisi. La contraddizione è questa: che da un lato l'impostazione monetarista, quella tipicamente seguita dal governo tedesco e dai paesi del nord, sta provocando danni enormi, sta provocando danni sicuramente ai paesi più deboli dell'eurozona, ma non credo che la stessa Germania, che è un paese che vive di export, potrà continuare a vivere di export se gli altri paesi non hanno il reddito sufficiente per comprare questo export. Ma d'altra parte, che questa linea sia fallimentare non significa che l'impostazione keynesiana ci farà uscire dalla crisi. Qui torniamo anche al discorso della BCE, cioè mentre nel breve periodo è sicuramente meglio, è sicuramente sensato oggi adottare una politica fiscale espansiva e non restrittiva, quindi bisogna fare il contrario di quello che dice la Merkel, ma non è che questo risolve nulla, semplicemente indebitarsi pospone il problema. Quindi questa è la contraddizione, secondo me, dentro cui sono prigionieri le classi dominanti, che non a caso non riescono a uscire dalla trappola. È vero, gli Stati Uniti d'America, con la loro politica fiscale e monetaria espansiva, sono andati meglio dell'Europa, ma le previsioni dell'OCSE, che hanno riabbassato i tassi di crescita per il 2014, parlano di un quadro generale che è nero, non solo per i paesi ricchi, ma per la prima volta anche i paesi emergenti stanno cominciando a ridurre i loro tassi di crescita. Quindi a 7 anni di distanza la crisi si approfondisce e prende in alcune aree la via peggiore, che è quella della guerra. Questo mi sembra, così come primo pensiero sull'argomento. Sì, Maurizio. No, Maurizio, io dicevo questo qui. Dunque, due questioni. La prima, tu dicevi che la Germania, di fronte, diciamo, a questa eresia francese, sarà costretta in una certa misura a rivedere anche le sue posizioni, anche se in questo momento, diciamo, ha dato bacchettato un po' tutti, dicendo: fate i compiti e state buoni. Cioè, no, tu nella tua previsione vedi che comunque non credo che cambieranno idea, ma credo che non potranno impedire ai francesi di fare quello che vogliono. Questo intendevo dire. Sì. Cioè, che è possibile che i tedeschi continueranno, è possibile anche nella loro politica, però non riusciranno ad imporre, ecco, a chi volesse di fare un altro modo. Seconda questione, Maurizio, in maniera molto rapida. se le, nel breve e medio periodo le misure, diciamo, neo-keynesiane sull'economia, come dicevi tu, possono avere un valore, quindi per esempio immissione di liquidità sui mercati, manovra sul fisco, investimenti pubblici, tu dicevi però nel lungo periodo ci ritroveremo un pochino comunque, queste economie si ritroveranno comunque in difficoltà. Allora qual è la prospettiva, diciamo, la strada da praticare sin da ora, anche in una prospettiva che non sia di breve e medio periodo ma più lunga? Credo che il problema fondamentale, lo ripetiamo da anni, almeno per chi discute con noi qualche volta la domenica, il problema fondamentale è quello di capire che con le innovazioni tecnologiche e con quella roba che forse abbiamo sottovalutato, ma che ha funzionato in un certo senso, che è la globalizzazione, l'effetto congiunto di queste due manovre fanno sì che oggi c'è molto meno lavoro necessario contenuto nelle merci e ce ne sarà sempre meno rispetto a prima, ed è questo secondo me il nodo da affrontare, cioè se noi vogliamo in qualche modo che le persone continuino ad avere un reddito dal lavoro e non da non si sa bene che cosa, bisognerà abbassare drasticamente l'orario di lavoro, bisognerà ripensare questo innamoramento delle innovazioni tecnologiche e della produttività, e in qualche modo soprattutto i paesi ricchi dovranno cominciare a capire che siamo arrivati a quel punto in cui l'espansione delle innovazioni tecnologiche, l'introduzione continua di tecnologie, cioè la ricchezza della forza produttiva del lavoro, è imprigionata da questi rapporti sociali, per cui non riesce a esplodere se non a prezzi e a costi gravissimi. Quindi la riflessione è sempre di più su quelli che per noi sono i temi fondanti di un approccio socialista all'economia, e questo è il punto, il nodo, cioè se tu vuoi che le persone lavorino devi ricominciare a pensare questo nesso, non puoi continuare a puntare su quelle che sono le ricette classiche, cioè il mercato, la proprietà privata dei mezzi di produzione, la tecnologia. Questa rottura prima o poi deve entrare nel dibattito, e credo che il nostro ruolo sia quello di cominciare a farcelo entrare. È in parte quello che dicono da versioni e da versanti diversi i sostenitori della decrescita, che questo punto secondo me lo acchiappano bene, sì. Cioè non è pensabile, io aggiungo, dentro gli attuali rapporti sociali, quelli di tipo capitalistico, continuare a pensare che si crescerà. Pronto? Pronto? Eccoci. Pronto, sì, ecco. Ecco, allora non so se abbiamo forse interrotto a no, Maurizio. No, va bene, se no. Tu ascolti Giorgio? Sì, io vi sento. Voi mi sentite? Perfetto, andiamo così. Noi stavamo parlando, Giorgio, con Maurizio Gattera, con Maurizio Donato. Adesso faccio la domanda a te. Sì. Tu hai avuto con noi un incontro radiofonico 2 anni fa in cui prefiguravi che la Merkel fra poco, diceva allora, dovrà fare i conti con la Francia, in quanto tu prevedevi che la Francia non avrebbe mai rispettato il Fiscal Compact, che avrebbe fatto le sue politiche economiche, perché ci avrà da rispondere un problema all'interno stesso della sua nazione. Così si è realizzato. Come prevedi, cosa pensi che questa scelta francese influirà alle scelte politiche economiche che hanno portato avanti le politiche dell'Europa? Ma dunque, prima bisogna cercare di capire per qual motivo la Francia, che era sempre stata allineata con la Germania, ha cambiato posizione. Ricordiamoci il sorrisino complice di Sarkozy e della Merkel contro a proposito di Berlusconi, che naturalmente tutti, la sinistra in Italia, ha goduto a vedere così sputtanato Berlusconi senza capire che si stavano buttando nelle mani di Sarkozy e della Merkel. Bene, quello che c'è dietro, c'è il Fiscal Compact, che è stato votato dal Parlamento italiano il 23 di luglio del 2012, guardare la data, 23 di luglio, prima delle vacanze, l'hanno votato ad una maggioranza bulgara. Si sono, da quello che mi ricordo, si sono astenuti soltanto la Lega e Italia dei Valori, o hanno votato contro, ma comunque tutto il resto allineati completamente ad approvare un cappio economico imposto dalla Germania e dalla Francia di allora, Sarkozy, che li avevano, che per mettere a posto i conti. Allora si tratta di andare a vedere che cosa c'è dentro questo Fiscal Compact. Fino adesso tutti quanti stanno a dire che ci sarebbe il pareggio di bilancio, al punto, cioè le spese dello Stato dovrebbero essere coperte integralmente con tasse, senza nessun sforamento di deficit, sì, qualcosa, 0,5%. Bene, questo pareggio di bilancio ci è stato richiesto dalla Unione Europea il 28 di giugno 2014, pareggio nel 2015. Bene, a questo punto abbiamo saputo che l'Italia non ce la fa a fare il pareggio, e quindi 1 ottobre 2014 il ministro delle finanze che dice il pareggio lo rinviamo al 2017. Ma c'è di peggio, perché questo è l'1 di ottobre, il 2 di ottobre la Francia, che aveva, Hollande, che aveva confermato il 16 di marzo del 2014, non violerò mai il tetto del 3% insieme a Renzi, bene, cosa dice Hollande il 2 di ottobre? Sforiamo il 3% fino al 2017, cioè facciamo saltare il Fiscal Compact fino al 2017, sia l'Italia che la Francia. Perché? Perché cosa c'è nel Fiscal Compact? L'equivoco sta, c'è un convitato di pietra, si crede che il Fiscal Compact riguardi soltanto il pareggio di bilancio, no, c'è di peggio, nel Fiscal Compact è previsto un secondo provvedimento approvato con maggioranza del oltre il 75% dal Parlamento italiano, Popolo della Libertà e Partito Democratico. Bene, è quello che dice che dal 2016 bisogna ricominciare a ridurre il debito pubblico, portarlo al 60% del PIL in 20 anni. Allora ho fatto un po' di calcoli per l'Italia e per la Francia, per quel po' di dati che possiedo. Bene, per l'Italia ha più o meno 2.000 miliardi di debito pubblico, sto arrotondando perché, per capirci, pare più o meno al 120% del PIL. Portarlo al 60% in 20 anni significa ridurre il debito pubblico in 20 anni di 1.000 miliardi, il che significa in 20 anni 50 miliardi all'anno. Per cui dal 2016 il bilancio pubblico sarà gravato da un handicap in Italia di 50 miliardi all'anno, che dovranno essere coperte con le tasse a prescindere da qualsiasi spesa pubblica. Bene, allora sono andato a vedermi cosa aveva previsto quel santuomo di Cottarelli, perché le cose sono state dette, è questione che non si leggono e minché meno si interpretano. Allora, lo spending review di Cottarelli, bene, c'ho qua i dati, pubblicata il 31 di luglio del 2014, prevedeva per il 2014, per il bilancio, per la chiusura del bilancio 2014, 7 miliardi di tagli. Nel 2015, quindi adesso, per il prossimo anno, 18 miliardi di tagli. Il governo Renzi ne sta chiedendo 20-22. 3/3, preparatevi. Per il 2016, quando scatterà il rientro del debito pubblico, la riduzione della quota di rientro del debito pubblico, la spending review di Cottarelli prevede 34 miliardi di tagli delle spese statali, non 20, il doppio. Dopodiché ho fatto una piccola cosa, sono andato a vedere cosa poteva, si può capire, della Francia. E la Francia si trova in questa situazione, ha un debito pubblico di 2.000 miliardi come noi, è arrivata finalmente a 2.000 miliardi di debito pubblico, che però per lei vale siccome è più grossa, è un'economia più grossa, vale il 100% del PIL. Noi siamo al 120% del PIL. Questo vuol dire portarlo al 60%, significa portarlo a 1.200 miliardi, il che significa ridurre il debito pubblico, piano di rientro del debito pubblico, di 800 miliardi in 20 anni, che sono per la Francia 40 miliardi all'anno, che vanno spesi, ben accantonati per ridurre l'incidenza del debito. C'è un problema, che qui la Francia gira molto alle scatole, noi un po' meno perché siamo meno nazionalisti. Questo debito pubblico è in parte nazionale, in parte estero, e quindi questi 50 miliardi per noi all'anno di restituzione del debito e 40 miliardi alla Francia di restituzione del debito, in parte va a creditori nazionali, vabbè, restano in casa, una parte va all'estero, una parte di questi creditori nazionali sono tedeschi. Bene, e a questo punto se scatta 2016 il Fiscal Compact nella sua seconda parte, non nella sua prima di cui tutti parlano, ma nella seconda, che è nascosta e che abbiamo approvato, i nostri parlamentari hanno approvato, perché non sanno di economia, sanno soltanto obbedire ai capi bastone che sono i loro leader. Bene, si tratta di restituire una parte, pagare una parte del debito pubblico a chi? Ai creditori tedeschi, creditori che sono prevalentemente fondi di investimento e fondi pensione. Si tratta semplicemente per la Francia e l'Italia di pagare le pensioni ai dipendenti tedeschi. Bene, noi ci piace perché siamo masochisti, i francesi no, perché i francesi si ricordano nel 1871 cosa fece la Germania prussiana dopo la sconfitta della Francia, quando impose un onere di guerra spaventoso, e non vogliono più, e non vogliono più. Cosa hanno fatto i francesi, cosa che noi non abbiamo fatto? Hanno votato Le Pen, hanno mandato a cagare i socialisti. Ma ce lo ricordiamo quale percentuali? No, perché abbiamo delle cose. Dunque, nel maggio 2014 il Fronte Nazionale ha preso il 26%, il Partito Socialista ha preso il 14%. E a questo punto Hollande è divertente, perché Hollande si è preso una paura della Madonna, ha capito, avendolo portato al 14%, ha dato la colpa al rigore. Hollande si assolve, colpa del rigore, leggo qua il 27 maggio 2014. Bene, a questo punto i sondaggi scatenati per trovare un nuovo equilino all'Eliseo, la Le Pen. Bene, affidiamo la bomba atomica francese alla Le Pen. Noi non abbiamo la bomba atomica, per cui non ci frega più niente di che c'è. Ci va bene anche Berlusconi, tanto non ha nessuna voce in capitolo, o chi per lui. Ma la Francia ha la bomba atomica. E allora ecco, caduto il governo, si rifà il governo con Valls, e cosa dice Valls appena nominato? E strappando una maggioranza risicata in Parlamento. No all'austerità, 17 settembre 2014. Valls, il destro, almeno il socialista di destra, ma c'è di peggio, perché il 7 settembre si erano trovati Renzi e Valls e avevano lanciato quella che è stata chiamata dai giornali l'alleanza Eurodem. Vi dico il contenuto: sfida Berlino, basta rigore. Berlino come ha risposto? 14 settembre, Berlino pronta a ingabbiare Italia e Francia. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble vuole rendere obbligatorie le raccomandazioni dell'Unione Europea sulle riforme. Il vincolo peserebbe sui paesi in ritardo con le misure strutturali come l'Italia, o fuori dai parametri come Parigi. Risultato, siamo adesso a questo punto, siamo ad una sfida aperta alle regole del Fiscal Compact, che il Parlamento francese e il Parlamento italiano hanno votato Per questo punto la Germania ha poi ragione a dire: ma che cacchio, l'avete votata voi e poi dopo vi arrabbiate? Bene, a questo punto si sono accorti non solo che non ce la fanno più economicamente, ma che rischiano di essere cacciati via calci in culo dal Parlamento i socialisti francesi e i democratici italiani se la situazione economica non riprende. E allora si sono presi un po' di spago e per rimanere su quelle loro poltrone, perché sono potere, posti e soldi, bene, sono disposti anche e finalmente a fare la guerra alla Germania. E la Germania la Germania reagirà. E come reagirà? Martin Wolf, capo editorialista del Financial Times, l'ha già detto: non illudetevi di potervi sottrarre al rigore made in Germany. Bene, siamo nel 2014, stiamo celebrando, e qua vorrei chiudere, stiamo celebrando il centenario della Grande Guerra. La Grande Guerra, sappiamo tutti, comincia in agosto. Primi di agosto i cannoni cominciano a sparare, Francia e Germania cominciano a spararsi fra di loro, eccetera. Bene, poi a un certo punto l'avanzata tedesca sembra sul momento vincente, è a poche decine di chilometri da Parigi e fine di settembre, primi ottobre 1914, i francesi, con un rigurgito di orgoglio nazionale, vincono la battaglia della Marna e ricacciano i tedeschi al di là dei confini, non so dove erano, e respingono l'offensiva tedesca. Bene, cent'anni dopo la Francia è impegnata in una sua nuova battaglia della Marna per respingere non le armate tedesche stavolta, ma semplicemente il rigore tedesco, e ha a fianco questo governo saltimbanco che dice una cosa e dice un'altra, un governo bugiardo, come sempre è stato il governo italiano, che era alleato con la Germania nel 14, salvo essere poi alleato con gli altri nel 15, era alleato con Hitler nel 40, salvo diventare alleato con gli altri nel 43. Gli italiani stanno sempre dalla parte del vincitore. Ecco, mi pare di aver finito. Pronto? Giorgio. Sì. Io, intanto vabbè, saluto sia Maurizio che Giorgio, intervengo proprio rapidamente. Qui insomma il dibattito è complesso. E io in realtà l'intervento che volevo fare, la domanda che volevo fare per rivolgere sia a Maurizio, che è rimasto silente, e a Giorgio. la verba di Giorgio. E riguarda in realtà un articolo che è uscito questa mattina sulla Repubblica, un articolo a firma di Federico Rampini, che oltretutto abbiamo ritenuto interessante e importante a tal punto da inserirlo, da leggerlo in rassegna stampa. E Rampini dice in buona sostanza che l'America, insomma, sarebbe arrivata, gli Stati Uniti sarebbero arrivati a voltare pagina, che la crisi sarebbe ormai alle spalle, con la disoccupazione statunitense che è scesa sotto il 6%. Ora, chiaramente Rampini dal suo punto di vista fa uno scenario rappresenta, come dire, tratteggia uno scenario suo. Ora io chiedo a voi: questa dinamica centrifuga che sembra spingere l'America e l'Eurozona proprio in direzioni opposte, a quali conseguenze ci può portare? Non so se la domanda è pertinente con il dibattito, insomma, però diciamo che lo scenario americano ci interessa, i cambiamenti che stiamo vedendo negli Stati Uniti ci interessano parecchio, perché poi credo che vadano ad orientare i mercati, le scelte per esempio delle multinazionali, i flussi di investimento. Che ci dite a proposito? Maurizio, sì, cosa ci dici? Ma guarda, a proposito degli Stati Uniti, va ricordata quella che è stata secondo me la notizia più importante per l'economia italiana nella settimana scorsa, ossia la riunione che si è svolta all'Hotel Four Seasons. Non sento. Mi senti, Giorgio? Giorgio, senti adesso? Sì, senti Maurizio? Non sentivo Maurizio. Sì, sì. Vai Maurizio. parlavo della, a proposito del ruolo degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'Europa, parlavo della riunione che si è svolta la settimana scorsa in un albergo di Milano organizzato dalla JP Morgan, la più importante banca di investimento statunitense, in cui sono stati invitati i principali fondi di investimento, per lo più americani ma non solo, fra cui Fidelity, che tanto per capirci è un fondo che muove qualcosa come 1.700 miliardi di dollari, il fondo pensioni canadese e anche Allianz Global, Axon Capital, eccetera. In pratica tutti questi fondi sono venuti a Milano perché in questo momento le azioni delle più importanti imprese italiane, i prezzi delle azioni sono così bassi che loro sono molto intenzionati a fare quello che stanno facendo da alcuni mesi a questa parte, cioè a comprare, a investire e molto in Italia. Che cosa vuol dire? È vero che ci sono differenze grosse fra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti d'America hanno una banca centrale che fa la banca centrale, che fa esattamente il suo mestiere, per cui in tutti questi anni ha speso qualcosa come 1.000 miliardi di dollari l'anno per sostenere l'economia statunitense, e in questo modo, oltre alle politiche fiscali dell'amministrazione Obama, sono riusciti a mantenere la crisi a livelli accettabili. Ripresa è una parola grossa, diciamo che hanno perso meno di quello che ha perso l'Europa, ma la differenza è che, oltre al fatto banale che l'Europa non è un solo Stato, ma esiste l'Unione Europea, e questo si vede nelle differenze che ci sono fra i paesi del nord e i paesi dell'area mediterranea, ma soprattutto gli Stati Uniti d'America sono ancora l'unica vera potenza militare del mondo, e il fatto che ci siano delle divergenze per quanto riguarda la gestione della politica monetaria è vero, però che cosa è successo di interessante negli ultimi mesi? Che la politica della BCE è riuscita in qualche modo a fare una cosa che è una delle più importanti per quanto riguarda l'euro, cioè è riuscita in parte ad abbassare il valore dell'euro rispetto al dollaro. Allora, l'euro era quotato nei confronti del dollaro 1,34, 1,31, 1,30, è sceso 1,27, adesso 1,26. Che cosa prevedono alcuni analisti internazionali? Che da qui ad alcuni anni, non a moltissimi anni, la parità fra euro e dollaro potrebbe essere 1-1. A quel punto, se si arrivasse ad una situazione in cui i rapporti tra euro e dollaro sono 1-1, allora si potrà fare quella che è l'operazione che sta a cuore ad una parte del capitale statunitense, che vuole attrarre l'Unione Europea dalla sua parte, soprattutto attraverso i negoziati sul TIP, sulla Transatlantic Partnership, per sganciare, questa è l'operazione politica in cui la Germania sta in mezzo, sganciare l'Europa dalla Russia, e l'idea di fare votare le sanzioni contro la Russia a proposito della crisi ucraina serve unicamente ad indebolire l'Europa politicamente da questo versante. Quando euro e dollaro avessero raggiunto una parità e valessero sostanzialmente la stessa cosa, alcuni circoli internazionali non scartano a priori l'idea di un'unica valuta euro-dollaro, perché quella che oggi è, così tento di rispondere a Valentina, una differenza, come dire, di breve periodo sulla gestione della politica monetaria, però in prospettiva, in quello che vede gli Stati Uniti impegnati in una competizione internazionale con la Cina e o cioè contro la Russia, in quel caso l'Europa dovrebbe stare dalla parte degli Stati Uniti e queste differenze si potrebbero di molto ridurre. Concludo per dire che la Germania, che è il paese che attrae sempre giustamente tutta la nostra attenzione anche in negativo per la gestione della politica economica, in questo momento ancora è un paese che ospita, diciamo tra virgolette, più di 150 basi militari americane, quindi sì. I rapporti fra Stati Uniti e Unione Europea non sono esattamente di parità, ma sono comunque su un piano di relazione abbastanza subordinata, in cui alla fine l'ultima parola credo spetta sempre allo zio Sam. Senti, no, adesso no a Maurizio, a Giorgio, con la stessa domanda di Valentina, il suo punto di vista è se pensa che la Germania potrebbe raggiungere il suo sogno a fasse il suo euro di serie A e l'euro di serie B, se ci sono le condizioni pure che vanno su sta cosa, al di là di quello che dice Maurizio della moneta unica globale, come la possiamo chiamare, no? Quella occidentale. Occidentale, no? Non lo so, mi vedo più la possibilità che la Germania si sgancia, perché fino adesso sicuramente un operaio tedesco della crisi se ne è accorto molto meno dell'operaio greco, italiano, spagnolo, francese, no? Perché non lo so quanti operai in Germania si trovano una difficoltà e se sono disposti a lottare per una società più equa, più giusta, perché poi anche dalla Germania qualche filosofo una volta aveva detto che bisogna ridurre la popolazione mondiale in qualche modo, perché 7 miliardi sono troppi. Puoi rispondere, Giorgio? Sì, ecco, no, l'analisi di Maurizio è bellissima, molto stuzzicante, questa previsione di una moneta euro-dollaro unica in funzione anti-Russia e anti-Cina, perché bisogna pensare che dall'altra parte potrebbe formarsi quella che io ho cominciato a chiamare Slavasia, e cioè una unione economica fra la Russia proiettata verso la Siberia e la Cina proiettata altrettanto verso la Mongolia e quant'altro. Quindi si potrebbero formare due grosse, il mondo occidentale e il mondo orientale, ecco, per dire. Ecco, però io avanzo soltanto un'osservazione allo scenario bellissimo e stuzzicante di Maurizio che terrò molto presente da adesso in poi. I tempi per arrivare al rapporto 1-1 euro-dollaro e quindi a questa combinazione, i tempi sono lunghi, e la mia impressione è che la tenuta dell'Europa non regga, cioè, perché l'Europa è vero, la logica americana, la logica monetaria soprattutto americana è diversa da quella europea. Negli Stati Uniti si fa quantitative easing, che vuol dire politiche keynesiane, tanto per renderci chiaro, politiche della domanda, qui invece si fanno politiche dell'offerta, ecco, quindi rigore monetario. Il risultato è che là c'è inflazione sotto controllo naturalmente e aumento dell'occupazione. Qua da noi cosa abbiamo? Abbiamo deflazione, i prezzi vanno a calare, i prezzi sono a calare, cioè la domanda sta cedendo la domanda della zona euro l'aumento spaventoso della disoccupazione soprattutto giovanile. Ecco, bisognerebbe cominciare a ragionare a livello europeo di quanto tenere conto la disoccupazione. Ecco, questa disoccupazione soprattutto giovanile che sta crescendo in Europa, pensate alla Spagna, quando ci raccontano che il modello spagnolo è ottimo perché è riuscito a rispondere agli imperativi della Troica. Sì, però bisogna andare a vedere a che prezzo questo di disoccupati questo è avvenuto. Bene, questi disoccupati come li facciamo? Come facciamo a gestirli? Ecco, infatti anche il povero Renzi è lì tutto preoccupato, deve stare tirando fuori un discorso di una sorta di salario di cittadinanza, perché bisogna gestirli questi, ecco, per quello che non riescono poi a tagliare, bisogna creare nuovi ammortizzatori sociali. Bene, questo significa fare spesa pubblica, questo significa tirare fuori dei soldi, Ecco qui, allora ho un sospetto. Questo, la Germania se ne frega. Perché? Perché con l'inflazione, il patrimonio si svaluta. Con la deflazione il patrimonio si rivaluta. Allora bisogna cominciare a pensare che forse in Europa, soprattutto in Europa, il rapporto si sta aprendo una frattura fra quello che possiamo chiamare, che Piketty ci ha fatto capire, ci ha fatto intravedere, un capitalismo manageriale, diciamo un capitalismo d'impresa, e un capitalismo patrimoniale, diciamo un capitalismo di ricchezza. Bene, a questo punto l'interesse del capitalismo manageriale sarebbe quello, certo, di svalutare l'euro per poter esportare fuori dalla zona euro, state attenti, fuori dalla zona euro, perché se si svaluta l'euro, si svaluta per tutti i paesi della zona euro, quindi non c'è nessun vantaggio per i paesi del Mediterraneo. Quindi la Germania potrebbe dire: non me ne frega niente dei paesi mediterranei, io esporto fuori dalla zona euro. Ecco, siccome lì però c'è il rischio di cambio, la soluzione possibile, unica, è che svalutare l'euro in modo che il cambio dell'euro rispetto alle altre monete sia favorevole, quindi la Germania esportare, che so, gli Stati Uniti verso la Cina, verso la Russia e quant'altro, ma non nella zona euro, che rimarrebbe comunque vincolata alla sua condizione miserrima. Ma questo va contro gli interessi del capitale patrimoniale, perché significherebbe fare inflazione, significherebbe svalutare i patrimoni, svalutare quegli asset finanziari e patrimoniali. Ecco, che mi ha insegnato a osservare con attenzione proprio il libro di Piketty. Quando parla di capitale, il capitale nel XXI secolo, ed ha una definizione onnicomprensiva del capitale. Il capitale è il capitale industriale, sì, ma c'è dentro anche il capitale commerciale, e poi c'è anche dentro il capitale finanziario, poi c'è dentro anche il capitale immobiliare, poi c'è dentro anche il capitale pubblico. Tutto questo peso. Bene, a questo punto raccolgo soltanto un'osservazione, un dato da quel libro di Piketty. Il rapporto capitale-reddito, cioè quanto capitale ci vuole per avere un'unità di reddito, per produrre un'unità di reddito, tutto questo capitale, tutto, quanto patrimonio, ecco, forse per meglio dire, quanto asset ci vuole per produrre un'unità di reddito, negli Stati Uniti è 4. Ce ne vogliono 4 per avere una unità di reddito. In Europa è 6. Ci vogliono 6 asset, dosi di asset, per avere un'unità di reddito. In Italia è 7. Ci vogliono 7 dosi di capitale per produrre un'unità di reddito. Cioè è un capitale enorme in quello europeo rispetto a quello americano, che è in gran parte improduttivo, non produce reddito. Ed ecco che allora si crea, almeno io le intravedo, ecco, per quello che ho difficoltà a vedere quell'obiettivo dollaro-euro 1-1 che venga raggiunto, perché si aprirà prima, secondo me, un conflitto enorme fra il capitale, la dimensione capitalistica patrimoniale, e la dimensione capitalistica manageriale, le imprese contro banche, immobiliari, finanziarie e quant'altro. E questo per me dovrebbe scoppiare presto, prossimamente, così fra 3 anni mi ritelefonate e vi dico come è andata a finire in Germania. Adesso, così come allora avevo detto, guardate che la Francia non se la fa mica, perché sta diventando come noi un paese maiale, e lo è diventata, Sarkozy ha fatto finta che non fosse maiale, ma non ce l'ha fatta, e poi alla fine Hollande si è trovato con una Francia come paese maiale, pigs, insieme all'Italia, al Portogallo e alla Spagna. Bene, a questo punto la mia previsione è che prima dell'orizzonte molto, molto emozionante previsto da Maurizio possa scoppiare uno scontro di classe, ma non tra classi, all'interno della classe padronale, perché la parola padrone bisogna dirlo ogni tanto di nuovo, tra il capitalismo manageriale e il capitalismo patrimoniale. E quindi a quell'obiettivo 1-1 dubito che ci si arrivi, anche perché adesso l'America ha cercato di tagliare il cordone ombelicale fra la Germania e la Russia, non fra l'Europa e la Russia, ma fra la Germania e la Russia. Ma le sanzioni verso la Russia poi si ritorcono contro l'Europa, e l'inverno è alle porte. Il generale inverno si sta avvicinando. Dopodiché cosa fa gli Stati Uniti? Ci mandano il gas liquido con le loro navi a una sorta di grande battaglia dell'Atlantico, come venne fatto nel 42-43? Non ce la facciamo mica, perché non ci vogliono i rigasificatori sulle coste europee, e non ci sono rigasificatori sulle coste europee, bisogna farli ex novo. Certo, liberarsi dalla dipendenza energetica della Russia è possibile, anzi è una posizione, una prospettiva ottimale, ma è una prospettiva. Adesso non si può, adesso l'inverno è domani. Giorgio? Sì? Senti, no, una questione, dunque... Da quello che dicevate sia tu che Maurizio si evince chiaramente, poi insomma i nostri compagni e compagni all'ascolto sono avvertiti di questo. Sicuramente il mondo è dominato, come ricordavi tu, dal capitale sotto varie forme: capitale patrimoniale, capitale d'impresa, capitale finanziario soprattutto, e tutto ciò è in mano di ristrette oligarchie, politiche, finanziarie. Poi accanto c'è la sterminata palude, la sterminata selva dei dannati, che ammontano a centinaia di milioni tra precari, disoccupati, gente che vive con ancora con un dollaro al giorno, diciamo, di reddito. Ora tu auspicavi, e la cosa è molto interessante, che la resa dei conti ci possa essere anche dentro il sistema. Tu auspicavi di poter arrivare, ma la cosa non la possiamo dare per scontata, ad uno scontro tra il capitale d'impresa e il capitale finanziario. Ma in attesa di questo, tutta questa massa di dannati dice che cosa, come si organizza e come dobbiamo organizzare i lavoratori, non solo d'Italia ma un po' di tutta Europa, del mondo. Quali punti di rottura all'interno di questo sistema possono trovare? Quali possono essere i possibili punti di rottura? Tu in una intervista che io ho letto e mi ha molto interessato, parlavi degli anni 60, dove il punto di rottura ci fu nella individuazione della catena di montaggio, che lì coagulò forze che rispetto al sistema si organizzarono per sovvertire, almeno tentare di sovvertire lo stato di cose. Oggi, diciamo, per le masse lavoratrici, per le masse popolari, per i diseredati, i punti di rottura rispetto a questo sistema, quali possono essere, in attesa che ci sia anche uno scontro interno? Beh, intanto sarebbe la ripresa di una coscienza collettiva di classe, cosa che non vedo affatto, perché l'individualismo thatcheriano ha fatto i suoi danni. E quindi ognuno cerca di salvarsi da solo, non salvarsi assieme, perché io ho delle chance, tu non ce le hai, io passo e tu non passi. Ecco, quindi poi esiste quello che è stato chiamato il masochismo di classe, cioè i diseredati subiscono, accettano, in qualche modo si adattano alla situazione contingente. Ecco, cerchiamo di ricordarci che durante la Grande Depressione degli anni 30-33 Trotsky si interrogava come un maledetto di perché di fronte ad una crisi come questa, quella prima grande crisi, non ci fosse una insurrezione proletaria come quella che invece era successa negli Stati Uniti, scusa, in Russia nel 17. Dice, non c'è stato nulla, anzi peggio. Cosa c'è stata? Perché la reazione alla crisi, la reazione proletaria alla pre-crisi è peggio, è Hitler, sono i governi di destra, sono i governi che garantiscono Hitler due cose: stracciare i trattati, dare lavoro ai disoccupati. Immaginate un partito che avesse questa faccia tosta di dire: se io vinco, straccio il fiscal compact, mando a fanculo l'Europa, chiudo le frontiere, protezionismo, dopodiché all'interno faccio deficit spending e pubblica occupazione. Immaginate, allora nel 33 Hitler ce la fece, e non soltanto Hitler. Ricordatevi che poi nel 39 venne sconfitto il Fronte Popolare. Ecco, bisogna ricordiamoci tutti i governi di destra che nacquero in quella fascia cuscinetto che c'era fra la Germania e la Russia, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, Ecco, la crisi deflattiva produce governi di destra, opinioni pubbliche di destra, non opinioni pubbliche di sinistra. E quindi la situazione nostra potrebbe essere quella di cercare disperatamente di mantenere accesa questa bandiera in attesa di che? Quando è che ci si sposta a sinistra? Quando c'è l'inflazione. Quando c'è l'inflazione l'opinione pubblica si sposta a sinistra, con la deflazione l'opinione pubblica si sposta a destra. Bene, bisogna sperare che l'Europa, la Banca Centrale Europea, faccia inflazione, ma sapendo che allora vincerebbero le forze estremiste di sinistra, non quelle di destra. Ecco appunto, perché quelle di destra servono per la deflazione, servono per il patrimonio, servono per il capitalismo patrimoniale e sono loro, quelli che tu dicevi certamente, sono certo, è l'1%. È lo slogan di Occupy Wall Street. Noi siamo al 99%, loro sono l'1%. Sì, d'accordo, ma loro all'1% hanno tutti i poteri in mano, compreso il potere di manipolare le menti della gente. E si vede benissimo anche in Italia come manipolano le menti della gente. Maurizio, pronto? Sì, sì, eccomi. Sì, senti Maurizio, allora secondo te dico la stessa cosa, ci può essere qualche granello in questo meccanismo di sviluppo capitalistico che può aiutarci ad inceppare sto sistema, qualcosa di molto concreto che si possa avviare seppure in embrione, diciamo, possa inceppare sto modello di sviluppo, chiamiamolo così? Ma è ovvio che questo è l'argomento più difficile di tutti, quindi proprio con i piedi di piombo, ma anche per me il punto di partenza è esattamente lo stesso che ha sollevato Giorgio e ha a che fare con la coscienza di classe. È un termine che abbiamo rimosso abbastanza dai nostri ragionamenti perché sembra avere a che fare con qualcosa di idealistico e invece per me è il concetto più materialistico di tutti. Qualche giorno fa, quando ragionavo con alcuni compagni di Napoli su che cosa si potesse fare per dare un senso alla manifestazione che c'è stata e che è andata bene con le persone, con molte persone che hanno applaudito i manifestanti nei quartieri popolari, che cosa si potesse fare? Allora io ci ho pensato un po' su e l'idea qual è? Dobbiamo trovare sempre i punti di contraddizione, i punti di crisi dello schieramento avverso e dobbiamo lavorare sugli elementi di cooperazione interni al nostro schieramento. Nel caso di Draghi, che cosa è venuto a dire? E si sapeva perfettamente che cosa avrebbe detto nel discorso del 2 ottobre a Napoli. Che la Banca Centrale Europea avrebbe dato 1.000 miliardi di euro alle banche, ancora una volta, comprando i loro debiti cartolarizzati e tentando per questa via di rimettere in moto quel meccanismo di trasmissione della politica monetaria che lo stesso Mario Draghi, in tutti i discorsi che ha fatto da 4 anni a questa parte, dice che non sta funzionando più. E allora che cosa ho suggerito di dire ai compagni? E ne è uscito fuori un testo che è apparso su qualche sito, che è il discorso di Mario Draghi a Napoli. Abbiamo fatto dire a Draghi che 1.000 miliardi di euro sarebbero stati dati direttamente ai disoccupati e ai precari, in modo che il meccanismo di trasmissione della politica monetaria per una volta funzionava davvero, da sotto a sopra. Questi 1.000 miliardi sicuramente sarebbero stati rimessi in circolo nell'economia, sicuramente poi sarebbero affluiti anche alle imprese e alle banche. Cioè un discorso apparentemente, se volete, paradossale, che sembra assurdo, che però in qualche modo coglie la contraddizione che volta per volta attraversa il pensiero delle idee dominanti, perché non c'è dubbio che tutto quello che loro stanno facendo in questi anni non sta funzionando. Che cosa dobbiamo e che cosa possiamo fare noi? Volta per volta trovare i punti di crisi dei loro ragionamenti, ributtarglieli fuori, e vale per l'articolo 18, no? Come caspita potete pensare che la gente creda al fatto che per assumere più persone dovete rendere più possibile il loro licenziamento? È una contraddizione così grande, e su queste cose, quando noi ci muoviamo così, funziona. In qualche modo le persone cominciano a riprendere coscienza del fatto che quello che li unisce è più forte di quello che ci separa, e per questa via, in qualche modo, materialisticamente, sperare che le cose vadano avanti. Dopodiché è chiaro che anch'io, Giorgio è un grandissimo storico economico e del pensiero economico, conosce la storia dell'economia e la storia del pensiero economico, ed è proprio vero, quando ci sono i periodi di deflazione tutto questo favorisce la destra, e quindi siccome sembra che Mario Draghi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il discorso di Napoli su questo è stato chiaro, aumenterà un po' l'inflazione, allora probabilmente questo ci potrebbe servire. Però bisogna, secondo me, incalzare sempre i padroni e i loro rappresentanti sulle loro contraddizioni. Fare questo diventa molto difficile con soggetti come il bullo di Firenze, perché oramai i loro discorsi, i discorsi del bullo in particolare, prescindono così completamente dalla realtà e dalla logica, sono propaganda pura, ripete ossessivamente un concetto senza preoccuparsi che abbia un senso, che abbia una connotazione logica, però in qualche modo le persone hanno fatto presto a capire in questi mesi che cosa ci fosse dietro questi discorsi, il vuoto, il nulla assoluto, solo propaganda, solo società dello spettacolo, scenografia per coprire il fatto che loro dentro il quadro dei rapporti sociali, se non lo si modifica, non hanno nulla di proporre, da proporre di buono per le persone. Per cui se noi con un linguaggio il più possibile semplice, informato, attento alle cose, che non faccia voli pindarici inutili, se stiamo dentro, cioè dico questo proprio e concludo. Noi, secondo me, dobbiamo considerare che cosa è successo in questi anni. Non è successo quello che ci saremmo aspettati, ancora una volta per le ragioni che Giorgio ha definito bene. Non è vero che necessariamente nei momenti di crisi i comportamenti sociali assumono una valenza antagonistica. Essendo il proletariato legato a doppio filo al capitale, è ovvio, è materialisticamente ovvio che ne segua anche la crisi. Però come i proletari e gli operai e i precari in carne ed ossa in questi anni hanno reagito alla crisi? Quali microstrategie di sopravvivenza hanno messo in campo e mettono in campo tutti i giorni le persone normali per sopravvivere? Solo se noi attiviamo un punto di contatto con queste strategie, ne intercettiamo una parte ma non stiamo lontano e fuori, a quel punto, stando dentro le cose, credo che possiamo riassumere quel ruolo che da molti anni non abbiamo più. Bene, guarda, io devo salutare Giorgio Gattei, se c'hai da fare un intervento pure conclusivo, perché perché sono abbiamo necessità della linea telefonica che integra quello che penso io. Va bene, va bene, benissimo. Dicevo, perché dato che sono arrivate una serie di telefonate che non possiamo mandare in onda, e allora dai, attacchiamo noi così. No, il fatto è che tutti vogliono interloquire e domande verso Maurizio, perché dici delle cose che probabilmente qualcuno le vorrebbe capire meglio, mentre per Giorgio ci ha dato diretto il punto di vista, e le telefonate che ci hanno segnalato che vogliono intervenire era su Maurizio. Perciò salutiamo Giorgio. Bene. Giorgio, grazie, buon lavoro. E ti utilizzeremo successivamente. Bene, ok. Ciao, grazie. Mandiamo Maurizio, che mandiamo lo stacco musicale pure. Dacci fretta, c'ha la pari nella società umana. Banchiere vieni strana, datti una calmata. Tacci il bottino, tira fuori soldi e paga. Tacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo e abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fai bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello punta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è? Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro e poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Allora, liberato sul telefono, abbiamo la prima telefonata, perciò pure gli ascoltatori adesso che vogliono intervenire possono fare, perché una linea l'abbiamo liberata. Pronto? Pronto, sì, eccomi qua. Bene. Allora, puoi fare le domande, Maurizio è in ascolto? Sì, sto qui. Vai. Ecco, allora io ho seguito con interesse questa discussione di questa mattina e così sinteticamente su alcuni punti volevo dire la mia, insomma, anche soprattutto sentendo Maurizio cosa ne pensa, perché andando con ordine, insomma, il discorso della Francia anche a me è capitato ripetutamente proprio dai microfoni della radio, insomma, di in qualche modo avvertire della caduta economica soprattutto che si stava verificando nella Francia di Sarkozy e poi adesso ovviamente di Hollande, con un'ulteriore specificazione riguardo al fatto che la Francia sta pagando la sua politica, la monocultura nucleare in particolare, dove per nucleare non bisogna pensare semplicemente al fatto di produrre energia elettrica da fonte nucleare, bisogna pensare che questa 70% che gli viene di energia elettrica prodotta da fonte nucleare ha significato nel corso di 40 anni istituire una struttura industriale finalizzata e concentrata soprattutto su questa tecnologia, che oggi mostra le corde perché non si costruiscono impianti nel mondo, non si vendono, l'EDF è profondamente in crisi, le stesse centrali francesi, qualcuna che doveva essere chiusa, Hollande, nonostante la crisi, sta rimettendo in discussione queste cose, e non ultimo il fatto che la GE Electric si è comprata in larga parte la più grossa società elettromeccanica d'Europa, che è la Alstom, che è la più grossa insieme alla Siemens tedesca, quindi proprio a significare che il ciclo nucleare in quanto tale, pensate al Mali, alle miniere che dominate dalla Francia, dall'Areva eccetera eccetera, ha costituito per la Francia un elemento forte di sviluppo che oggi invece si presenta proprio come un elemento di crisi strutturale, perché c'è un indotto grossissimo che lavora per questo settore. Quindi con questa crisi della Francia, secondo me, almeno a mio parere, ha anche questa specificità, insomma, oltre tutte le altre cose che sono dette. Per quanto riguarda la crisi generale, Maurizio osservava che qui nonostante anche l'accenno che c'è stato alla presunta ripresa degli Stati Uniti, che anch'io concordo è una presunta ripresa di carattere strettamente congiunturale, perché i parametri generali non è che siano cambiati tanto anche negli Stati Uniti, quindi è una congiuntura positiva che annuncia semplicemente il prossimo picco negativo del ciclo, diciamo così. Però sulle considerazioni, che sono tutte con cui concordo in pieno, non tanto però su quando l'accenno che è stato fatto per la decrescita, capisco perfettamente cosa volesse dire Maurizio, però attenzione, qui i teorici della decrescita restano comunque laddove si dice che non si può prevedere uno sviluppismo senza fine e quindi ridefinire i parametri generali della vita sulla Terra in qualche modo. E quelle teorie là prescindono totalmente da un discorso di rapporti di forza e di potere, cioè io preferisco ancora parlare, se possibile, di socialismo, laddove il socialismo può comprendere perfettamente una teoria decrescente dell'economia, dei consumi, eccetera eccetera, perché altrimenti quello che è stato formulato dai teorici della decrescita è un sistema che dovrebbe, su più sostenibile di quello attuale, o decisamente sostenibile come vi pare, ma che rimane sempre dentro una logica di economia di mercato, che viceversa secondo me non è sufficiente, perché poi sono quelle razionalizzazioni che in parte potremmo anche assistere, fatte dallo stesso capitale, laddove per esempio la green economy è così considerata in questa direzione anche dagli avversari dello sviluppo, e per cui vanno a incentivare, ma restano sempre, diciamo, esperienze di tipo capitalistico. E quindi insomma una puntualizzazione in questo senso che ci dovrebbe riguardare più da vicino come diciamo antagonisti al sistema capitalistico, per non dire direttamente socialisti o comunisti, come vogliamo definirci. Quindi insomma, ecco, sulla decrescita, laddove si prende a riferimento, preferirei puntualizzare, insomma mi piacerebbe puntualizzare, perché appunto altrimenti rimane un'altra delle varianti di un mondo possibile abbastanza indefinito, che non è né socialista, non si capisce che cos'è, vogliamo tutti un altro mondo possibile, ma quest'altro mondo possibile è molto indeterminato. Altra cosa viceversa che mi interessava anche discutere e sottoporre così alla discussione è: va bene, ma questa crisi generale, se noi spesso siamo abbastanza bravi o sufficientemente bravi, ma magari non sempre, ma qualche volta sì, a capire i contrasti della lotta capitale-lavoro e quindi ad analizzare le dinamiche del capitale, ci perdiamo però più frequentemente nel capire qual è il comportamento delle borghesie, perché non è esattamente la stessa cosa. Cioè, un conto sono le strategie di capitale, che non sempre coincidono poi con la volontà delle borghesie nazionali in particolare, e per cui mi sembra proprio che oggi con il fattore francese, la sortita francese definita un'eresia rispetto a certe politiche e certi parametri, stia a testimoniare proprio questo. Cioè, che cos'è che lì viene fuori? Che in questa crisi i parametri generali mettono in contraddizione le singole borghesie nazionali tra loro, fino al punto di, per motivi interni, per diciamo togliere terreno alla destra, possiamo considerare tutto quello che vogliamo, Hollande vuole fare questo perché ha paura, realisticamente sta perdendo voti, eccetera eccetera, di Le Pen, quello che vogliamo, e vengono fuori questi programmi appunto di rottura di certi equilibri, che sono non rottura di equilibri capitalistici. Su questo io non concordo tanto su Piketty, quello che dice capitale di qua, capitale di là, che vanno in contrasto. Qui è un discorso più che altro di borghesia nazionale, che se non sono contrastate adeguatamente da parte nostra, tra virgolette, sfociano facilmente in nazionalismo. Quando sentivo l'altro Giorgio che parlava, credo da Bologna, dicendo finalmente qui ci si rivolta contro la Germania, parliamoci, insomma, siamo un po' più attenti, no, anche nell'uso delle parole, che vuol dire che incoraggiamo un nazionalismo europeo, dei singoli paesi europei, un contro l'altro armati, per ripetere esattamente quello che è successo 100 anni fa, ovviamente con caratteristiche diverse. Io credo che questo dovremmo evitarlo a tutti i costi, e il modo per evitarlo a tutti i costi è trasferire anche nelle rivendicazioni dei movimenti sociali, politici, quelli che siano, un discorso di rigetto del criterio siamo tutti nella stessa barca, del criterio il sistema Italia. Qui non c'è un sistema Italia, non c'è una stessa barca, insomma più volte anche voi l'avete ripetuto costantemente, qui non siamo sulla stessa barca, per cui anche le invocazioni a ripristinare una coscienza di classe non possono che passare attraverso questa illuminazione proprio fra noi, anche fra i movimenti, che spesso ne sono viceversa estranei da queste considerazioni, che qui gli interessi sono in contrasto, non possono che essere in contrasto con quelli delle borghesie nazionali. Se Hollande può sforare il 3% e va benissimo, perché ci coglie d'accordo, e questo dovrebbe significare, in teoria, poi non è neanche detto, minori sacrifici, perché allora le varie finanziarie dei vari paesi diventano più alte, ma questo non significa che allora i nostri interessi diventano gli stessi, perché se no è inutile parlare di coscienza di classe, insomma, altrimenti resta così una cosa abbastanza ideologica, insomma. Bisogna proprio capire che nelle politiche nazionali i nostri interessi sono comunque divergenti, perché rimandano alle condizioni di vita to court, insomma, no? Quelle essenziali, proprio i meccanismi semplici della riproduzione sociale, che qui non sono più garantiti. Questo è quindi un discorso più che altro, più che di diritti, io parlerei di bisogni in questo senso. Già, va bene, nelle domande ce ne stanno tante. Fammi rispondere Maurizio. Sì, sì, ma guarda, una cosa ultima, sì. E finisco. E quindi, insomma, quello che secondo me, tanto per essere proprio pratici e concreti, è che qui ci abbiamo di fronte una strategia di capitale che, secondo me, io l'ho chiamata così, è la strategia del debito. Il debito che si deve ripagare e che diventa un'ipoteca sul futuro. Qui si parla, i giovani dicono ci hanno rubato il futuro, più che rubato, è ipotecato, perché chiunque nasce con 20.000-30.000 euro di debito, a seconda che nasce in Francia, in Italia o in un altro paese, perché il debito pubblico. Mettere in discussione questo significa mettere anche in discussione non solo le strategie di capitale, ma anche il ruolo del borghese nazionale, cioè questo debito. Bisogna dirlo chiaramente, non c'è modo di ripagarlo se non ribellandosi, oppure con una guerra. Cioè che spariscono i debiti o con una guerra, e allora torniamo al discorso che le borghesie nazionali si affrontano l'uno con l'altra, o con delle rivoluzioni, per cui si dice io non pago niente, ed è solo questo la strada da percorrere, secondo me. Ecco, volevo un po' sottolineare queste cose e chiudo per non sottrarre tempo. Grazie, ciao. Maurizio? Sì, pronto. Io sono qui ma non sento più niente. Adesso senti. Pronto, ci senti adesso, Maurizio? Adesso sì. L'hai sentito l'intervento telefonico? Sì, sì, sì. Sì, l'ho sentito, sì. Tutto. Bene. Solo l'ultimo secondo non sentivo più. Guarda, sono d'accordo su tutto. Dalla prima questione, cioè che nella crisi francese c'è un elemento che è stata una delle cose più terribili che sono successe in questi anni, che è l'incidente di Fukushima. L'incidente nucleare in Giappone ha pesato molto nella ricomposizione del sistema energetico internazionale, e quei paesi come la Francia, che erano sbilanciati dal punto di vista nucleare, sono andati in crisi. Quindi ancora una volta dimostra la contraddittorietà del sistema. Il fatto di essere potenza militare nucleare dà alla Francia una certa forza nel proporre le loro politiche, però contemporaneamente sono d'accordo che la debolezza del sistema industriale francese ha a che fare con questa ricomposizione dell'industria energetica. Stati Uniti, sì, difatti è una ripresa piccola, però ecco, lì gli Stati Uniti invece, dal punto di vista della ristrutturazione energetica, hanno fatto qualcosa di strabiliante. Cioè in questo momento il valore della produzione petrolifera americana ha quasi eguagliato quello dell'Arabia Saudita. Hanno approfittato gli americani, il governo statunitense, di questi anni di crisi per praticamente azzerare o quasi il loro bisogno di importare petrolio da paesi che ovviamente sono per loro parzialmente affidabili. Tenete presente che una delle ragioni che secondo me ci fanno capire il perché siano ritornati in Iraq dopo avere spergiurato che se ne sarebbero andati e che molti dei contratti petroliferi sono stati accaparrati in questi anni dalla Cina, per cui tu fai il gendarme del mondo, fai il poliziotto planetario e poi alla fine non riesci a incamerare quelli che poi erano i tuoi obiettivi. E dunque il Kurdistan credo che gli interessi, perché ovviamente gli Stati Uniti d'America non sono minimamente sensibili alle lotte di liberazione nazionale, ma perché lì se i curdi controllano alcuni giacimenti petroliferi è più possibile per i governi occidentali avere buone chance. L'altra cosa che hanno fatto gli Stati Uniti è la strategia chiamata reshoring, anche su questo ne abbiamo parlato, ma è importante, cioè hanno smesso di delocalizzare e hanno fatto in modo che diverse imprese multinazionali tornassero a produrre negli Stati Uniti, un po' perché i costi del lavoro in paesi come la Cina, pur bassi, ma sono aumentati del 30%, e in parte perché il costo del lavoro, cioè il salario degli operai americani, si è abbassato. Quindi queste cose, insieme alla politica monetaria accomodante, alla politica fiscale che si possono permettere, ha fatto uscire un po' gli Stati Uniti dalla crisi. Sulla decrescita sono completamente d'accordo, difatti era un passaggio quello sulla decrescita per dire questi teorici quantomeno hanno capito che non bisogna insistere a farla troppo lunga sulla produttività, sul bisogno di crescere, dopodiché gli manca tutto quello che per noi è il contenuto fondamentale della strategia, e cioè il ribaltamento dei rapporti sociali. L'ultima parte, quella sul debito, lì farei un'aggiunta. Quando il compagno che è intervenuto diceva ci sono solo due modi per uscire da questa storia del debito, cioè o la guerra oppure non pagarli, anche lì credo che le politiche monetarie servano, perché quando Giorgio Gattei diceva giustamente con la deflazione i patrimoni si rivalutano, succede la stessa cosa anche con i debiti, mentre invece un po' di inflazione svaluta anche i debiti, per cui qualche cosa si dovranno inventare, perché lo dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, l'idea che paesi come la Francia o l'Italia tirino fuori 50 miliardi di euro l'anno per 20 anni da tagli alla spesa pubblica significa veramente essere folli. Soltanto un massacro sociale, ma vero, potrebbe garantire una cosa del genere. Con un po' di inflazione tutto questo diventa leggermente, ma solo leggermente, più sostenibile. C'è un'altra telefonata per te pure, pronto? Ciao, buongiorno compagni, mi sentite? Sì, sentiamo, puoi parlare, anche Maurizio ti ascolta. Sì, sento. Ciao Maurizio, buongiorno e grazie per la tua presenza. Ciao, senti, grazie a te. Allora, io mi volevo connettere ad una tua affermazione che ho ritenuta la più importante per quanto ci riguarda noi come insomma, diciamo, compagni e compagni di un luogo come la città di Roma, l'Interland, sebbene possa essere ascoltata la radio anche in streaming dappertutto. Allora, sappiamo che fa tutta quanta l'analisi sulla macro e iper economia mondiale, l'avete fatta tu insieme a Giorgio, quindi sappiamo il fenomeno dell'insourcing degli Stati Uniti, del loro fracking, del loro manovre monetarie, eccetera eccetera. Però ritornando all'affermazione che tu hai fatta, e cioè quella che dovremmo cominciare finalmente a smetterla di fare professoroni sulle macro e iper economie mondiali e capire come noi classe stiamo reagendo, ed uso le tue parole, con micro soluzioni dal basso per poter fronteggiare la crisi ormai già da 6 anni, cioè dal 2008 a oggi, con piccoli passi, con piccole azioni fatte giorno per giorno, e quindi qui non parlo dei grandi Stati Uniti o della grande Europa, ma parlo, che ne so, della piccola Tor Bella Monaca, della piccola Bufalotta, della piccola Prima Valle, che sono a noi vicine e che possono essere studiate, esaminate ed implementate proprio per ricavare quel linguaggio semplice, lineare, che possano capire le persone e possano, insomma, rifarlo proprio e costituire di nuovo una classe che possa essere fuori dagli egoismi individuali, uso un termine brutto, proattiva nei confronti di questo attacco ormai di 6 anni, 7 anni, e a mio parere anche di più, se non minimo appunto dalle leggi Treu in poi. Forse magari potremmo cominciare a dire qualcosa, perché di queste analisi, come dire, ipereconomiche, ne abbiamo fatte e ne facciamo tutte le settimane, tutti i giorni, in quantità allucinante. Però di quello che appunto tu hai affermato, e che mi sembra la cosa più, no, mi sembra, ritengo che sia la cosa più importante, cioè queste micro soluzioni dal basso, queste non le stiamo studiando per niente, se non così come affermazioni generiche, e che alla fine appunto non ci daranno, se non le esaminiamo in maniera seria e profonda, quel linguaggio che ci sarà utile. Ciao a tutti, compagni. Ciao, grazie. Guarda, è proprio quello che io penso che dobbiamo fare nei prossimi mesi, e quello che io c'ho in mente di fare, e che soltanto un serio lavoro di inchiesta sociale sui territori ci consente di fare. Faccio 3 esempi, proprio perché ci sto pensando da un po' di tempo. 3 esempi che naturalmente non sostituiscono un'analisi scientifica, ma che tiro fuori dal fatto che anche io, come te, come tutti, dalla mattina alla sera ho a che fare con persone che cercano di svoltare una situazione difficile. Che cosa trovo che stiano facendo molte persone in difficoltà? 3 cose mi vengono in mente, una delle quali discutibile, una decisamente negativa e l'altra interessante. Allora, una cosa che le persone stanno facendo è ridurre i consumi. Banale, semplice, ma evidente. In questa riduzione selettiva dei consumi c'è qualcosa da capire, e non voglio rifare il discorso della decrescita, però mi interessa capire esattamente a che cosa stanno rinunciando le persone, i nostri compagni di classe, e a che cosa no. A curarsi. Altro elemento, come le persone stanno sui luoghi di lavoro. Qui lo vedo un elemento problematico, perché ho l'impressione che stiano più timorosi, stiano più attenti a non perdere il posto di lavoro, articolo 18, no? Cioè il fenomeno della disciplina sociale qui sta giocando brutti scherzi. Terzo elemento, secondo me stanno sviluppando di più la cooperazione sociale a tutti i livelli. Sarà da un livello amicale, a un livello familiare, a un livello di quartiere, sono tutti livelli informali, ma ho l'impressione che molte delle persone stiano cercando di sopravvivere in questo modo. Quindi, consumi detti in ordine sballato, perché il primo, come stai nei posti di lavoro? A quali tipi di consumi stai rinunciando e come ti stai muovendo sul terreno della cooperazione sociale? Noi, se riusciamo a trovare di questi elementi quali sono quelli nei quali potenzialmente possiamo anche noi dire la nostra e dire bene, questo elemento è importante e va sviluppato, quest'altro è negativo, stiamoci attenti, quest'altro ragioniamoci su. Ecco, questo era quello che avevo in mente io, quindi ringrazio il compagno per questo intervento, perché secondo me questo è quello che dobbiamo fare, oltre al resto. Bene, c'hai un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io volevo dire, ma un ragazzo che parte dal sud Italia e viene a Roma, nel miglior caso per essere laureato e disoccupato, oppure viene a fare il carabiniere o viene a lavorare da McDonald's per 800 euro al mese, mentre nella campagna che lui ha abbandonato al sud arriva un extracomunitario col barcone e come bracciante guadagna 1.500-1.800 euro al mese. Ma quando ecco. Mai? Ma quando mai? E come? Io leggo sul giornale cerca di braccianti. Giornali. Vabbè, concludi la domanda. Green economy che la gente neanche capisce, ritorna all'agricoltura. Cioè, io dico, come si fa a lasciare la campagna per venire a Roma per guadagnare 1.200 euro? Forse perché la maggior parte di quelli che sono venuti a Roma hanno lasciato le campagne, sono laureati disoccupati e lasciano il posto ad altre persone che sono disposti a fare lavori ma più manuali e meno intellettuali, che però poi alla fine vivono anche meglio, perché vivono all'aria, con l'aria buona, si mangiano i frutti del terreno e molto altro. Ecco, io questo volevo dire. Bene. Grazie. Scusa, io intervengo perché è uscita un'inchiesta sull'Espresso, ma sai per caso cosa succede alle donne nel Ragusano, nell'area del Ragusano, con un doppio sfruttamento agricolo e sessuale? Quindi, insomma, prima di intervenire su queste cose, attenzione anche a quello che... Basta che sapere quello che succede a Caserta, alla piana di Gioia Tauro, insomma... Questi luoghi comuni, questo telefona tutti i sabbi, tutte le domeniche. Vabbè, è una frazione. O si documenta o ci no, risparmia. Ma speriamo che quelle poche cose che diciamo, un'altra telefonata. Speriamo che pronto? Quelle poche cose che diciamo gli servano a qualcosa. Pronto? Pronto, dici. Sì, niente, mi ha scandalizzato un pochino l'intervento che ha fatto quest'ultimo intervento. A noi ci ha fatto una del culo. Come? A noi ci ha fatto rode. Ecco, allora, io sono sono calabrese e quando c'è stato lo sfollamento di quelli di Rosarno, io ero lì perché quella sera serviva un interprete in francese, perché nessuno parlava il francese, e ho parlato io con i ragazzi africani che c'erano lì a Rosarno. E praticamente quelli guadagnavano 20 euro al giorno lavorando 10 ore al giorno a raccogliere le arance, ok? Che poi tra l'altro quella sera un ragazzo disse che avevano ammazzato un africano, e io mi sono rivolto al questore, che c'era il questore, gli ho detto che mi hanno dato questa notizia, lui sai cosa ha fatto? Mi ha girato le spalle e se n'è andato quella notte, ha fatto finta di non sentire. Ok, tralasciamo questo. Allora, quello che io ho sentito in questa trasmissione non sono altro che le stesse identiche cose che sono 55 anni che io ascolto, perché mio padre mi portava in sezione quando ero piccolo, e quindi non sentivo altro che parlare, bla bla bla bla bla. Allora, quello che io vorrei, insomma, desidererei, mi piacerebbe sentire, voglio essere educato, è un programma da Radio Onda Rossa, perché a sto punto noi dobbiamo fare un programma politico, non possiamo aspettare che gli altri ci gestiscano e ci mandano il siluro nel deretano, perché quello che sta facendo Renzi, il signor Renzi, che io appena l'ho visto ho pensato immediatamente a una spia, perché è così, non è altrimenti, no, perché alla fine lui sta facendo la politica. Ma come mai sta a pappe e ciccia con Berlusconi? Ma che c'entra? No, me la faccio io sta domanda. Allora, perché Radio Onda Rossa, che ormai ha il suo audience, diciamo, da tanti anni, io sono dal 77 che la sento, penso che abbiamo voce in capitolo se noi costituiamo qualcosa di politico. Non possiamo rimanere ancora così, perché più tempo passa e questi ci indebitano di più. Io ho cresciuto 6 figli con grande sacrificio e so io quello che ho dovuto lottare per farli crescere. Ho fatto il servizio militare e tutto quello che vi pare, ma lo Stato cosa ci dà a noi in cambio? Mi sembra di vivere la stessa storia di Sherwood, che c'è lo sceriffo che passa in parrocchia e gli porta al prete pure l'elemosina. E questo è Renzi? E questo siamo noi della sinistra? Che ci stiamo facendo abbindolare in continuazione? Io penso che Adesso ho sentito le ultime cose che diceva l'economista, non mi ricordo il nome, che parlava di alcuni i tre esempi, no? Qui la gente è disperata, io penso che le donne stiano andando a battere per strada per poter portare a casa un pezzo di pane, altro che gli esempi così da stipendi, qua c'è gente disperata. Allora le cose che bisogna fare, intanto io istintivamente, ragionando con la pancia, io in questo momento uscirei fuori dall'Europa, all'Europa gli metterei un vercat in mano e gli direi: io me ne ritorno a casa mia e a voi non vi do più niente, i debiti avete fatti voi, sono problemi vostri, va bene? Bene, questo che volevo dire. Va bene, ciao, grazie. In ogni modo ognuno ha i suoi ragionamenti, tanto per parlare un attimino, poi gli ridiamo la parola a Maurizio, se ha trovato spunti anche di questo tipo di telefonate, insomma, che ci sono, che la radio non è un soggetto politico ma un mezzo di controinformazione che mette a disposizione i microfoni pure attraverso il telefono, che cerca di allargare un dibattito e di cercare di collaborare all'eventuale volontà della, dal basso, diffusa, e non che la radio dà un programma e si trasforma in soggetto, ma la base si organizza a soggetto politico. Noi possiamo essere un mezzo di diffusione di alcune istanze, ma non siamo il mezzo che ci sentiamo, ma non per capacità, ma proprio per ruolo, quello che lancia un programma e diventa soggetto politico. Questo lo dico perché spesso ci dicono: prendete iniziativa dalla radio. Noi la radio la prende tutti i giorni, la domenica pure in particolare, ad aprire un discorso, un confronto, portando pure tutti i discorsi, e ne sentiamo telefonate che arrivano in tanti modi. Se in ogni modo Maurizio ha avuto spunto che c'è un'altra telefonata, allora mandiamo in onda pure questa. Pronto? Ciao Ettore, sono Giorgio. Guarda, condivido perfettamente quello che stavi dicendo tu alla fine, no? L'importanza della radio come strumento di comunicazione e di diffusione dell'informazione, quella che una volta veniva chiamata controinformazione. E la telefonata, quella che ci ha fatto rodo il culo a tutti, però è la dimostrazione proprio lampante di quanto il problema sia l'informazione, perché quello che ha detto quel signore prima, che va bene, non interviene tutte le volte, ma però comunque è un senso diffuso nella gente, ma non è diffuso perché la gente è stupida, perché la classe è stupida, perché i compagni sono stupidi, perché i lavoratori sono stupidi, è diffuso perché la gente è disinformata, totalmente disinformata, e secondo me uno degli elementi sui quali purtroppo riusciamo a lavorare poco, ma che dovremmo fare, che voi fate in maniera eccellente da sempre, lo riconosco, cioè è proprio questo, cioè dovremmo riinformare le persone su tutti i discorsi, anche il discorso fatto prima del micro e macro, eccetera. Sì, è vero, c'è bisogno di lavorare sul micro, perché però altrimenti rischiamo, anche con quello che diceva il compagno prima, di fare voli pindalici, però poi no. Ma non possiamo prescindere da quello che è un progetto generale, è chiaro, cioè è chiaro che il piccolo, cioè le risposte anche le individuali sono spesso purtroppo anche predeterminate, cioè fra i consumi, come diceva prima il professore prima, cioè un'indagine fra i consumi, no? E io ci provo a farla anche così intuitivamente, guardandomi intorno. Provate a vedere quanti cellulari vengono, quanta gente rinuncia ai cellulari, o non ai cellulari quelli banali, sempre, ma ai mega cellulari. Cioè, purtroppo le persone comuni, quelle in difficoltà, eccetera, eccetera, comunque continuano a comprare cellulari non di 20 euro, di 50 euro, parliamo di 300-400 euro e dispari, e via parlando. Niente, volevo solo sottolineare questo, cioè che purtroppo l'informazione è fondamentale, e quella telefonata, anzi, è importante, perché ci deve far riflettere su questo aspetto. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie. Maurizio. Maurizio. Guarda, io però aspetterei ancora, perché se ci sono altre telefonate. Non lo so se ci sono altre telefonate, perché adesso ecco sta squillando nuovamente il telefono. Un po' di spazio che è meglio. Eccolo, vai, arrivano. Pronto? Buongiorno a tutti. Pronto? Pronto, mi senti? Sì. Buongiorno a tutti. Di quel che diceva Maurizio, a me sembra estremamente interessante la terza cosa, cioè in che modo le persone si industriano per venire fuori da questa situazione. Io secondo me forse è possibile dire qualcosa in più. Forse è necessario aprire un quarto fronte, un fronte economico. Soltanto questo. Di qualcosa in più, specifica, dai, una volta chiedo io a te di specificarlo. Pronto? Pronto? Pronto? È meglio il concetto che hai espresso, Maurizio. Sì, volevo chiedergli di specificare meglio questa cosa, che intendeva per fronte economico, ero io che lo chiedevo a lui. E io gli stavo risuggerendo, sollecitavo. Cioè, senti? Sì. La telefonata, cioè, stai a... Pronto? Pronto, sì. Si sente male. No, perché noi non sentiamo. Pronto? Sì, mi senti? Vai. Pronto? Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Oggi su questo fronte ci sono tutta una serie di strumenti nuovi che forse possono essere utilizzati. Faccio riferimento ad esempio all'esperienza dei distretti industriali in Emilia Romagna, oppure quello che sta succedendo in Chiapas. Ecco, forse un modo per venire fuori in un momento in cui il leninismo sembra essersi inceppato e il politico sembra essere molto meno autonomo di quello che sembrava 100 anni fa, è questo. Cioè, io mi rendo anche conto che questo tipo non è la prima volta che si può tentare, che è stata tentata un'esperienza di questo tipo, ad esempio il movimento delle cooperative, la Coop Estense. Sono tutti tentativi che andavano in questa direzione, però oggi secondo me esistono degli strumenti e delle conoscenze in più che prima non esistevano. Mm-hmm. Ok, ho capito. Pronto? Sì, ho capito. Pronto? Grazie. Va bene, Maurizio. Che dici, vogliamo vedere se telefona ancora qualcuno? No, io direi da intervieni. Se telefona la prendiamo, perché noi siamo pure alle 13, dobbiamo arrivare a una conclusione della trasmissione, no? Perché poi d'accordo. Guarda, allora, noi abbiamo un orario, il nostro palinsesto finisce alle ore 13, possiamo sforare un po', però no, d'accordo, ma pure 10 minuti se possono sforare. No, soltanto per dire che è chiaro che questa richiesta, che non è la prima volta che viene fuori, di fare un passo avanti verso l'elaborazione di un programma politico, da una parte non deve essere rivolta alla radio, come ha chiarito Ettore, che ha un altro ruolo, che è quello dello strumento di comunicazione, però la radio si può fare veicolo di costruire una parte di questo programma. Per esempio, oggi abbiamo parlato poco, però il discorso aleggiava qua e là, della guerra, che credo sia la cosa che ha fatto più passi da gigante negli ultimi mesi come forma di gestione della crisi. E allora che nel programma politico del movimento comunque al primo posto ci deve essere sempre il rifiuto della guerra, delle aggressioni imperialiste, la solidarietà ai popoli attaccati e il ripudio di ogni forma di nazionalismo, questa è una cosa che va detta, va tenuta presente e che secondo me oggettivamente unifica molte aree politiche. C'è qualche telefonata? Sì, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? Sei in onda. Pronto? Sei in onda. No, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Prego. No, dicevo, è giusto non avere un programma politico, però poi una certa linea politica la bisogna averla, cioè tutti questi movimenti devono cercare una sponda, perché altrimenti siamo che andiamo in piazza e facciamo gli eroi. Poi, allora, rispetto a questo, molte volte io sento sacciatine contro i grillini e contro Landini, ma allora con chi noi dobbiamo rivolgerci per cercare una sponda a tutti questi movimenti in modo che abbiano sempre più maggiore forza? Insomma, questo è cercare una sponda a livello, cioè, ogni tanto si cita il soggetto politico, non vogliamo dire partito, ma insomma noi dobbiamo cercare una sponda di tutti questi movimenti, se no non andiamo da nessuna parte. Ecco, grazie. Quella che dicevi tu è una linea politica della radio, che se deformiamo il nome di Lagnini, di Landina Lagnini, della Camusso a Camuffo, c'ha un significato politico. Sono di gente che distrae la gente, cioè questi parlano a nome di un popolo per distrarlo, per tenerlo al buono all'interno di un sistema che noi vorremmo rovesciare. Vale la stessa cosa per i grillini, che chiacchierano bene e razionano male, e lo vediamo. C'hanno tanti di quei deputati in Parlamento, ma questi esistono solo in Parlamento, fuori non esistono. Nessun lavoratore trova sponde verso questi deputati. Perciò, quando facciamo le critiche, anche questa è una linea politica che la radio c'ha. Poi diamo parola a tutti, che telefonassero qua i grillini, perché poi gli rispondiamo a loro, che Lagnini telefonasse qua e gli spieghiamo per quale motivo lui è una sola, Ettore, e come la sola e anche Renzi. Ettore, un'osservazione del tutto personale, proprio sulla telefonata ultima. Cioè, i movimenti, secondo me, non è che si devono, diciamo, peritare di cercare una sponda. Eventualmente i movimenti, attraverso un'azione nella società, un'azione nei posti di lavoro, nei luoghi di studio, nei territori, sta sponda se la devono creare. Quindi qui c'è una distinzione di fondo. Non c'è la ricerca della sponda, ma la creazione della sponda, in maniera autonoma, in maniera del tutto autonoma, in maniera del tutto indipendente, pure rispetto a ciò che oggi si muove nel panorama politico italiano. Anche perché quelli che c'erano sono personaggi che già l'abbiamo sperimentato e sono impercettibili proprio, sono come fantasmi, non riesci a acchiapparlo perché come il fumo ti scappa dalle mani. In ogni modo, va bene, Maurizio. Sì, era soltanto per dire appunto che io una domanda sola a sì. Chiusura, sì. Per una curiosità e perché ne sono, c'è un conflitto di interessi. Allora, c'è sta campagna di ridare in anticipo mese per mese, proprio perché ci sono i salari che non reggono più la cosa, l'anticipo della buonuscita del TFR. No, a quest'ora non entriamo, ne parleremo più diffusamente, perché così spendono di meno. La cosa più ovvia sarebbe che vengano rinnovati i contratti e fa aumentare i stipendi per aumentare il consumo. Ma poi, dato che lo fa il capo del governo, il bolletto di periferia di Firenze, che si alza la mattina chissà che cazzo e la butta là, sarebbe il caso, no? Per esempio, dato che il bulletto darebbe prima l'esempio, hanno fatto un provvedimento, la Fornero, e da loro avvallata e sostenuta, e guai chi la tocca, che i dipendenti pubblici, tutti i 3,5 milioni di dipendenti pubblici, prenderanno la loro buonuscita che l'hanno già maturata, che non è solo salario differito accumulato dai datori di lavoro, ma c'è un contributo anche dei lavoratori che mettono mensilmente, gliela danno a babbo morto, cioè dopo 30 mesi dall'uscita del lavoro. 30 mesi dopo io vado in pensione il 1 febbraio, dato che l'avrei maturata il 1 febbraio 2015, l'avrei maturata a febbraio 2016, dal 2016 devo aspettare 30 mesi, perciò la mia liquidazione, che ho accumulato con 41 anni di servizio, me la danno nel 2019. Se me la dava subito, io spendevo subito, E come a me sono migliaia di persone che ogni anno escono e non possono usufruire dalla cognata buonuscita, che così avrebbero messo in moto l'economia. Perché non mettono prima quei soldi che già sono un diritto maturato e pensare di dare in anticipo le 30-40 euro mensili, perché più di quello non produce, del TFR? Questa domanda, così, qual è in fatto economico, a che cosa risolverebbe? Ci senti? Sì, guarda, telegraficamente, così più o meno ci avviamo a salutarci. Allora, nella risposta a questa domanda c'è anche la risposta implicita all'ascoltatore che parlava delle sponde, no? Bene, allora, visto che questo governo dice di volere restituire i debiti della pubblica amministrazione, bene, l'esempio che hai fatto tu è un classico caso di debiti della pubblica amministrazione che addirittura per legge questi decidono di pagare in ritardo ai lavoratori. Allora, su una battaglia del genere è evidente, ci fossero parlamentari, sindacalisti, intellettuali disposti a darci una mano nella campagna da fare per dire il trattamento di fine rapporto deve essere restituito subito alla fine del lavoro a chi lo richiede, noi le sponde magari ce ne avessimo, non avremmo proprio problemi ad averci a che fare, ma temo che non ci sia nessuno. Sul secondo punto, il TFR ai lavoratori, se lo vogliono prendere prima, qui secondo me rientra il discorso che facevo prima circa la vicinanza o la lontananza dalla classe reale. Io non lo so se per molti lavoratori avere la possibilità di disporre del proprio salario, perché si tratta del proprio salario, non alla fine dell'età lavorativa ma prima, cosa che moltissimi lavoratori fanno continuamente, beh, a me sembrerebbe il caso di chiederlo ai lavoratori che cosa ne pensano, perché è possibile che una parte consistente dei lavoratori, pur consapevoli del fatto che ci vanno a rimettere, perché se il governo fa una proposta del genere è ovvio che spera solo di risparmiare in termini complessivi lo Stato, è ovvio, altrimenti non l'avrebbero fatta, anche se da come ho capito dalle reazioni della Confindustria non se ne parla proprio. Però io non sarei così contrario in linea di principio a lasciare la libertà di decidere del proprio salario ai lavoratori. Quello è un concetto, la libertà di decidere, cioè uno valuta da solo. Certo, ci sono tanti di quei padroni che quando te licenziano proprio l'ultima cosa non ta danno mai la buona uscita, certo. E insomma dice meglio che me la pio prima che dopo. Ci sono tante situazioni, però questa l'ha imposta per far crescere i consumi, anticipiamo io la buona uscita, vuol dire che riconosci che i salari non sono adeguati a fronteggiare, certo, i consumi, certo. Allora, dato che so anni che non rinnovi e non adegui nessun contratto, sarebbe questo la politica di sviluppo, ma adeguare che va nella direzione con i rinnovi contrattuali i stipendi, adeguare i consumi, no? Esatto, ma invece credo che prendi i soldi miei e decidi di aumentare i stipendi. No, l'incontro che stanno preparando con i sindacati dovrebbe andare esattamente nella direzione opposta, cioè il prossimo piattino che ci stanno regalando CGL, CISL, UIL e governo la settimana prossima, se non ho capito male, è la pietra tombale sui contratti collettivi nazionali di categoria, con il governo che proporrà ai sindacati, che ovviamente accetteranno, qualcuno facendo finta di no come al solito per poi dire di sì, di mettere tutto sui contratti aziendali, e quindi esattamente il contrario di quello che tu dicevi adesso, che invece è esattamente quello che andrebbe fatto. Speriamo, aspettiamo sto coso, poi sto tema lo svilupperemo sicuramente. Anche perché intorno a queste questioni, Maurizio, ci abbiamo solo la cornice, a parte articolo 18, del quale si vuol sapere, sappiamo che qual fine si vuol far fare, e resta una cornice che dovrebbe essere riempita nei prossimi mesi. Va bene, Maurizio, tanto ti salutiamo. E stai sempre allerta perché ci serve. Ciao. Ciao Maurizio. Allora, noi a questo punto è andata come è andata la trasmissione, ci possiamo ritenere soddisfatti o meno. Noi da studio abbiamo oggi ascoltato più che parlato. Chiudiamo, no? Ricordando i numeri, che non ce l'ho sotto l'occhi. Allora, il numero di conto corrente postale è sempre il 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, ecco. Roma. Gli ascoltatori che pensano che noi dovremmo diventare un soggetto, intanto ci facciano sottoscrivere facendoci restare mezzo di informazione. Poi diamo l'appuntamento. Cioè, oggi alle 16 c'è un presidio a Piazza Vittorio antirazzista per contrastare delle iniziative che fa Forza Nuova. Ci hanno sollecitato a ricordare questo appuntamento. L'altro appuntamento che ci sollecitano è che l'11 ottobre c'è un convegno alla Casa delle Donne per discutere, per prendere iniziativa per far uscire l'Italia dalla NATO. Insomma, questi sono i due. Poi Ettore, in realtà l'11 è una giornata ricca di iniziative, perché vedo qui che sabato 11 ottobre dalle ore 18 allo spazio sociale il nido di Vespe al Quadraro c'è una iniziativa di solidarietà a fianco della popolazione calcidica contro le devastazioni dei territori in Italia, in Grecia, nel mondo, e chiaramente tutte e tutti sono invitati a partecipare. E poi c'è un'altra iniziativa a Milano, questa indetta dal comitato No Expo, l'11 ottobre appunto dalle ore 15 a Piazzale Duca d'Aosta, zona stazione centrale di Milano, appunto partirà un corteo perché l'Expo si avvicina e sempre più mostra il suo volto di corruzione, spartizione, nocività, mafie, eccetera eccetera, e quindi appunto il comitato No Expo organizza questo corteo per opporsi ancora una volta ad un Expo che fa male. L'ultimo appuntamento, e poi salutiamo e ci vediamo domenica prossima, ci sentiamo, ci vediamo, speriamo, con gli ascoltatori il 10 mattina davanti al Tribunale di Roma a Piazzale Clodio. C'è un presidio di solidarietà contro la repressione, perché c'è la cosa di riesame degli arresti di Luca e di Paolo, e noi dovremmo essere lì perché questi compagni sono mesi ingiustamente tenuti dentro, ingiustamente tenuti all'interno. Salutiamo tutti i compagni e salutiamo. Vabbè, Valentina c'ha da fare una comunicazione. Un attimo. Allora, sì. Vabbè, ma allora, no, è importante questo, va bene, allora ti saluto, grazie. No, è importante questa cosa, la compagna che ha chiamato ci ricordava che in contemporanea l'11 ottobre in contemporanea all'iniziativa contro la NATO, alla Casa Internazionale delle Donne, ci sarà un incontro dalle 11 alle 18 con le donne curde. Questo è in contemporanea, al convegno, sì. Vabbè, sì, questo sì, non lo conoscevamo, noi sì. L'abbiamo ricordato e ricordiamo il 10 mattina, perché è importante una partecipazione di massa perché non possiamo più sopportare l'ingiusta detenzione che questi due compagni generosi, disponibili, stanno subendo. Salutiamo i compagni che sono ristretti nelle patrie galere, salutiamo Nunzio che sono sicuro che ci ha ascoltato, salutiamo Luca e Paolo, a domenica prossima. Ciao, a domenica. Secondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere. Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo. Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM. Un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Un macello, non ci sono parole su quello che stiamo vedendo. Mi cuore che chiedano a boicottare l'Israele, i protesti israeliani, a restare proprio alla scelta del popolo palestinese che ha deciso di resistere invece di andare avanti con le trattative inutili, quelle trattative intendo della pace inutili che dal 93 fino ad oggi non ci hanno portato neanche un diritto. Per un contributo monetario alle richieste che arrivano dalla popolazione Gazzawi sotto assedio, conto corrente postale 61 80 40 01 da intestare a Radio Onda Rossa, Via De Volci 56 00 185 Roma, specificando la causale Gaza. Long live Palestine, long live Gaza. A chi se queda la clara. State escuchando Radio Onda Rossa. La entrañable transparencia. 87.9 FM. De tu querida presencia. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Comandante Che Guevara. No agli accordi militari tra Italia e Israele. Keep your hand on your gun. Tutta la notte fino alle 8 di questa mattina hanno, credo, attraversato la striscia avanti e indietro centinaia di volte, buttando giù l'impossibile, facendo purtroppo tantissime altre vittime. First in my scope is BAE Systems, specializing killing people from a distance. Power is a drug and they need it. Questa è un'ipotesi di pace che evidentemente implica una sorta di neutralizzazione dal punto di vista militare di Gaza, in modo tale, aggiungo io, da restituirla a dei palestinesi che sono liberi e non oppressi dalla linea di Hamas, che ne fa degli scudi umani rispetto alle loro armi. Keep your hand on. A parte le scelte Italia-Israele si è molto sviluppata negli ultimi mesi dal punto di vista dello scambio degli strumenti di guerra, strumenti di attacco, strumenti di morte, e dal punto di vista anche dello scambio nella formazione. Contemporaneamente l'Italia ha ospitato reparti d'élite delle forze armate israeliane, principalmente in Sardegna, utilizzando i grandi poligoni militari di questa regione, l'aeroporto di Decimo Mannu, anche questo per la sperimentazione di vere e proprie strategie di attacco e di bombardamento che Israele è solita fare sul fronte medio orientale, Libano, a Gaza, come probabilmente ha fatto in questi mesi anche sul fronte siriano.